rimuovere gli antichi angeli dai loro piedistalli della pietà, rimuovere gli antichi angeli dal loro piedistallo della fiertà e buttar tutto in mare. Rimuovere gli antichi angeli che con il pregiudizio s'attaccano alle mie gonnelle, rimuovere ogni sorta di viltà, rimuovere ogni pentimento, rimuovere la fierezza e la pietà, rimuovere perfino il vento se s'attacca alla tua pienezza. Mangiare, dormire, sognare, non prendere sonniferi. Mangiare, dormire, sognare e osare rimuovere l'antica viltà, rimuovere le bende dei soldati dalle statue incoronate dei giardini, rimuovere la pietà, il sangue e la fiertà. Settembre ha schiuso le sue porte sonore e l'umiltà ventra per un sole agghiacciato.